gente sulle cose permanente, sulle cose, sulla gente, sulle cose, cose, cose, sulle cose, sulla gente, sulle cose permanente, sulle cose, sulla gente, sulle cose, cose, cose. Centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di... Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Still feel the magic of those melodies. It's been like a dream. A century's gone and its music is to those old friendly songs. Something I've been missing for such a long time. I'm wondering why. I wonder what happened to them all. Where are the 80 stars? Cerco un centro di gravità. Sulla gente. Avrei bisogno di... Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di... centro di gravità permanente, che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente.